gentlemen. Get on up. Yeah. Get on up, brother man. Oh, yeah, brother man. Ooh. Sound. Sound. Fire the pew. Yeah. Fire the pew. Yeah. Fire the pew. Fire the pew. Fire the pew. Não me basta mais. Não me basta mais. Não me basta mais. Não me basta mais. Voglio un panino gigante con dentro un milione di cose. Voglio Madonna per portarmela a letto e poi mandarle un milione di rose. Voglio una vasca piena di Coca-Cola e mentre nuoto voglio bere e abbronzarmi. Voglio telefonare al presidente americano e al telefono voglio sfogarmi. Voglio un aereo, che dico, una nave, che dico, uno sciatto, un sottomarino. Voglio sposarmi con mille ragazze e per ognuna io voglio un bambino. E voglio un casco di panna montata, me lo voglio poi mettere in testa e poi mangiare la panna montata, mangiarla tutta fin quanta ne resta. Voglio essere magro, coi muscoli in mostra, voglio vestiti di tutti i stili e voglio vincere l'Oscar e il delegato, il leone dei premi mai visti. E non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio conoscere il perché delle cose, voglio due tette come due meloni. Voglio conoscere i libri a memoria e le parole di mille canzoni. Voglio volare sopra il traffico del centro di Milano, voglio chiudere con una toppa il buco dell'ozono. Voglio la pace lungo le mie strade eppure tra i miei genitori. E voglio vincere tutte le guerre, voglio sentire ancora più rumori. E voglio andare al numero uno della classifica dei cannonieri. Voglio allenare la nazionale italiana, voglio essere il generale dei carabinieri. Non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio conoscere che tempo fa domani, voglio sapere cosa pensa la gente. Voglio conoscere gli angoli oscuri della mia anima e della mia mente. Voglio, voglio, voglio, l'erba voglio. Voglio conoscere gli extraterrestri. Voglio vederci con le luci spente. Voglio scoprire dei buoni maestri. E non mi basta mai, non mi basta mai. E non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio abolire la pena di morte in ogni angolo dell'universo. Voglio restare per sempre bambino e ritrovare le cose che ho perso. Voglio parlare in tutte le lingue. Voglio una tele con mille canali. Voglio il perdono di tutti i peccati. Voglio parlare con gli animali. Voglio sapere chi ha sparato per primo. Voglio cantare più intonato di Mira. Voglio sapere chi è nato per primo, l'uovo o la gallina. Voglio pagare miliardi di tasse. Voglio scoprire un pozzo di petrolio nel mio giardino, una sorgente di acqua gasata dal rubinetto del mio lavandino. Voglio che Gorbaciov sia fatto papa e che mia sorella trovi lavoro. Voglio capelli lunghissimi e lisci. Voglio trovare sia un amico che un tesoro. E voglio vivere tutta la vita. E voglio vivere tutta la vita.